Gabel, dentro un occhio terzo, ti faccio pensare a me, da piccolo perso. Rebel, dentro una limousine di quadri tutti matti, fatti, i ricordi riapparsi, riemersi, qual mio oblio, e luci dentro, oddio, apriamo il cielo e il fio, silenzi, di verdi memorie silenti, allucinanti, mementi, solerti dentro memento, Rebel, dentro un occhio terzo, ti faccio pensare da me da piccolo, perso, Rebel, dentro una limousine di quadri tutti matti, fatti ricordi, riaprissi cuor mio oblio, e luci dentro, oddio, apriamo il cielo, la pena e il fio, che il dolore serve a scrivere momenti, silenti dentro l'anima, momenti di ribellione continua, silenzi, riverdi memorie silenti, allucinanti mementi, solerti dentro, momento, Rebel, dentro un occhio terzo, ti faccio pensare da me da piccolo.